E allora, buonasera a tutti e tutte, buon anno, siamo ad Entropia Massima, sugli 87.9 di Radio Onda Rossa e questa sera parliamo di tecnologia e rivoluzione. Come sapete quest'anno il tema che ci seguirà lungo tutta la stagione del filone di tecnologia è quello dell'intelligenza artificiale. Abbiamo già fatto alcune puntate e abbiamo avuto un buon ritorno dagli ascoltatori, speriamo vi possa piacere anche questa. Quindi ci sentiamo all'inizio di salutare in particolar modo chi ci ascolta da dietro le sbarre oppure privato o privata della propria libertà personale e poi tutti gli altri, tutti e tutte le altre che ci ascoltano il lunedì sera ad Entropia Massima. Allora, tanto per riprendere un po' il filo del discorso, abbiamo parlato di come l'avvento delle tecnologie legate all'intelligenza artificiale creerà nuove masse di disoccupazione senza precedenti. Si parla di metà dei posti di lavoro persi nel giro di 10-20 anni, a seconda delle stime. E questo perché è in atto una enorme rivoluzione che possiamo diciamo mettere sicuramente nel novero delle rivoluzioni del tipo della rivoluzione industriale che insomma ha operato nel secolo scorso e che continua ad operare e a creare diseguaglianze e problemi di autoritarismo piuttosto che di sfruttamento. Ebbene, è in atto un'altra rivoluzione ancora più forte. Mentre per la rivoluzione industriale il focus era sulle capacità umane di compiere dei lavori fisici, che le macchine quindi andavano a sostituire, in questo caso si parla delle capacità cognitive dell'uomo, cioè quelle capacità che attengono alla capacità dell'uomo di organizzare, di scegliere, di prendere decisioni, di far funzionare le cose, di gestire. Sappiamo che la rivoluzione industriale ha causato uno spostamento del lavoro da un lavoro più fisico ad un lavoro più di terziario. Questo è successo chiaramente solo nei paesi più avanzati, con un PIL più alto, diciamo così. Le cifre sono abbastanza chiare ed eloquenti. In agricoltura si lavora ormai sotto il 20%, 10% a seconda del paese occidentale che prendiamo in considerazione. Il grosso lo fa per più del 60% il terziario. E quindi questo è quello che è successo. Allora, qualcosa del genere succederà anche adesso. Però che succede? Che se noi diciamo semplicemente che l'uomo è abilità fisiche e abilità cognitive, le fisiche ce le siamo giocate con la rivoluzione industriale, le cognitive ce le stiamo giocando adesso con l'intelligenza artificiale, cosa rimarrà di noi? E quindi una delle ipotesi è che si creino masse sconfinate di persone inutili, quindi la classe degli inutili. Siamo riusciti nelle scorse puntate a far capire qual era il problema e a che cosa stavamo tendendo. Settembre 2013, Frey e Osborne, due ricercatori di Oxford, scrivono un pamphlet, Il futuro dell'impiego, The Future of Employment, e prevedono che il 47% dei lavori negli Stati Uniti sia ad alto rischio. Di questi, stilano una classifica di quelli più ad alto rischio, andando più in basso verso quelli sempre a meno rischio. Quelli più a rischio di tutti sono venditori telefonici e agenti assicurativi, 99% di possibilità che spariscano. E poi seguono cronisti sportivi, cassieri, chef, camerieri, scendiamo gradualmente fino al 94%, assistenti paralegali, guide turistiche, sugli 80% abbiamo fornai, guidatori di autobus, lavoratori edili, assistenti veterinari, guardie di sicurezza, marinai, andiamo verso i 70, baristi, archivisti, carpentieri, guardie del corpo e via di questo passo. Una professione che invece non rischia nei prossimi 20 anni di essere soppiantata è quella degli archeologi, che hanno uno 0,7% di possibilità di sparire. Però insomma, è una professione riservata a pochi perché è molto costosa, ha dei ritorni economici molto bassi, anche per questo non c'è alcun interesse a creare macchine intelligenti che li possano sostituire. Però ecco, non possiamo pensare di diventare tutti archeologi, chiaramente. Quindi comunque il problema c'è, lo abbiamo evidenziato e ci siamo fatti un po' di ragionamenti, abbiamo tirato fuori alcuni esempi. Bene, passiamo oltre. Dopo aver detto che l'intelligenza artificiale e le tecnologie ad essa connessa renderanno gli umani inutili da un punto di vista economico e da un punto di vista militare, abbiamo fatto anche tutto un excursus sulle tecnologie militari che sempre di più stanno prendendo il sopravvento e limitando al minimo, no, la presenza umana negli eserciti. Ci potremmo chiedere adesso quali sono i talenti che ha la mente umana che ancora non abbiamo scoperto e quali potrebbero essere delle nuove professioni che potremmo svolgere in futuro. No, chiaramente questa non è una profezia, è solo una previsione che ha una certa probabilità. Ci sono ancora molte difficoltà tecniche da superare, ci sono soprattutto molte resistenze politiche. Tutto questo rallenterà il processo certamente, difficilmente potrà invece impedirlo. Ma non è solo il valore degli esseri umani ad essere a rischio. L'altro tema che oggi trattiamo è quello dell'individualismo, cioè il liberalismo imperante nel mondo si basa su alcuni pilastri. Uno di questi è il valore dell'essere umano, un altro è l'individualismo. Quindi gli umani potranno anche continuare a comporre, insegnare, fare investimenti, ma cosa succederà se il sistema li conoscerà meglio di loro stessi e quindi prenderà la maggior parte delle decisioni per loro? Ecco, di oggi parliamo di questo, di come questo tipo di rivoluzione può andare a minare l'individualismo. E si pensa che nello scenario più pessimistico gli individui potrebbero essere privati della autorità e quindi anche della libertà. Ma con calma, capiamo un po' bene che cos'è questo individualismo. Beh, innanzitutto è una fede liberale, individuo, una persona si definisce così, un nucleo indivisibile che non si può dividere, un nucleo appunto atomico, avvolto da una serie di strati esterni che possono far mostrare quella persona sotto diverse angolazioni, punti di vista, eccetera eccetera. Però in fondo ci dice la fede liberale nell'individualismo, c'è un'unica voce interiore. Quella voce interiore è l'individuo e viene anche definito autentico sé, quindi un nucleo completamente libero. Penso che sia una cosa che un po' tutti e tutte pensiamo, no? di noi stessi innanzitutto, no? Di essere liberi, quindi autenticamente se stessi, in fondo, no? E qual è l'idea? Che io posso sapere delle cose su di me che nessun altro può scoprire. Quindi io sono l'unico che possa davvero ascoltare tutto ciò che il mio autentico sé mi dice e non mi dice. Quindi anche ascoltare qualcosa sommessamente arriva alle mie orecchie. Quindi c'è da questo deriva la nostra autorità come esseri viventi. Non posso fidarmi di nessun altro che prenda decisioni per me. Nessuno può sapere chi sono, come mi sento e che cosa desidero. Ok, questo sembrano concetti semplici, però anche questi oggi vengono confutati dalle scienze biologiche, come vedremo. Ad ogni modo, il liberalismo si basa su questo. L'elettore sa cosa è meglio, il consumatore ha sempre ragione e la bellezza è nell'occhio di chi osserva. Quindi questi sono i tre pilastri della fede liberale nell'individualismo: scelta elettorale, scelta come consumatore nel supermercato e scelta estetica unica. Sta succedendo invece che non l'informatica, di cui comunque parleremo abbondantemente oggi e nelle prossime puntate, ma le scienze biologiche stanno confutando questo tipo di questa credenza, e chiamiamola proprio così, questa credenza. E quindi sembra, no, dalle ultime ricerche, e poi sappiamo sempre che la scienza ha questa capacità di rinnovare se stessa, e quindi chi porta nuove prove, e se le prove sono poi diciamo ripetibili da altri, quello diventa la nuova cosa che si pensa, no? Quindi non è che non si tratta né di filosofia né di religione, si tratta di scienza. La scienza ci sta dicendo: gli organismi sono algoritmi, gli umani non sono individui, sono divisibili, ci sono più individui nello stesso corpo, perché noi siamo semplicemente il risultato di tanti algoritmi che girano dentro di noi, e l'assemblaggio di questi tanti algoritmi si traduce nella nostra espressività esterna, ma non c'è un'unica voce interiore, non c'è un singolo sé. Altro tassello pesante che la biologia sta diciamo, con cui sta minando le nostre credenze, sono che gli algoritmi non sono liberi. Questi algoritmi di cui noi siamo fatti sono plasmati dai geni e dalle pressioni ambientali, ovviamente, e questi algoritmi che girano dentro di noi prendono decisioni in modo deterministico, cioè sulla base di fattori chiari, parametri chiari e lineari, oppure a caso, ma certamente non liberamente. Quindi, se questo è vero, e sembra sia vero dalle ultime ricerche appunto in campo biologico, potrebbe esserci un algoritmo esterno che mi conosce meglio di me stesso. E quindi, se qualcuno riesce a monitorare il mio corpo, le mie sensazioni, il mio cervello, quello che penso, bene, questo algoritmo può sapere chi sono, cosa sento e cosa desidero. E naturalmente, una volta che ho sviluppato questo algoritmo può sostituire il consumatore, l'elettore e l'osservatore. E sembrerebbe che la tendenza sia questa: sviluppare algoritmi che sanno più di noi cosa è meglio e che hanno sempre ragione. Negli ultimi due secoli, la fede nell'individualismo, tipica del liberalismo e non solo, diciamo più in generale di tutto l'umanesimo, quindi includiamo anche diciamo il socialismo all'interno di questa grande cornice culturale. Negli ultimi due secoli il buon senso ci diceva che non esistevano algoritmi esterni che potevano controllarci, era del tutto giustificata questa fede nell'individualismo. Stati e mercati potevano desiderare di controllarmi, ma erano privi della tecnologia necessaria per conoscermi realmente a fondo. KGB, FBI e tanti altri potevano avere una vaga comprensione di quello che è il mio funzionamento biochimico, genomico e cerebrale. Ma pure se avessero avuto tutte le mie conversazioni telefoniche, avessero registrato tutti i miei incontri, non avevano comunque una potenza di calcolo sufficiente per analizzare questa enorme mole di dati. E quindi se ne conseguiva, in maniera del tutto appunto conseguenziale, che gli umani erano sistemi autonomi, sono sempre stati considerati dei sistemi autonomi che seguono voci interiori, non seguono alcun grande fratello. Cosa sta succedendo invece nel XXI secolo? La tecnologia comincia a conoscermi meglio di me stesso. È chiaro che quando succederà che una qualche tecnologia, un qualche algoritmo mi conoscerà meglio di me stesso, l'autorità passerà dagli uomini ad una rete di algoritmi. Quindi le persone non si concepiranno più come esseri autonomi, ma si abitueranno a un insieme, diciamo ad essere considerati come un insieme di meccanismi biochimici che sono costantemente monitorati e guidati, quindi controllati, da una rete di algoritmi elettronici. Oh, questo sembra uno scenario così molto teorico e fantascientifico. Vediamo alcuni esempi, perché da questi esempi possiamo capire che in effetti la tendenza Potrebbe essere questa. Nessuno qui legge il futuro, però potrebbe essere questa la tendenza. E quindi l'idea di queste trasmissioni è di interrogarci su queste cose, prenderle in considerazione, cominciare a ragionarci e utilizzare la nostra sensibilità politica per poter poi come dire, impedire che le cose più nefaste avvengano. La cosa importante non è che un algoritmo mi conosca a perfezione, non è necessario che un algoritmo mi conosca a perfezione, mi deve solo conoscere meglio di me, deve compiere meno errori di me, e quindi se ciò avviene io non mi fido più di me, ma di questo algoritmo, no? È una conseguenza logica. Sta già avvenendo negli ospedali, abbiamo parlato del progetto Watson di IBM, un'enorme intelligenza artificiale che ha accesso a enormi masse di dati statistici sulle malattie ed è in grado di capire, di diagnosticare malattie in maniera più precisa che dei dottori professionisti. Negli ospedali le decisioni cominciano a essere prese da tecnologie di questo genere, ma il che potrebbe anche non essere una cattiva notizia, visto che in effetti funzionano meglio di un dottore. Allora a me l'unica cosa che voglio è che mi diagnostichino la malattia giusta, per cui non è necessariamente una brutta notizia, no? No, infatti la stiamo analizzando nella sua oggettività. Sappiamo, prendiamo per esempio il caso del diabete, sappiamo che chi soffre di questa malattia molto invalidante deve indossare dei sensori che tengono sotto controllo i valori sanguigni e sono in grado, quando i valori superano determinate soglie, di lanciare un allarme, e si risponde poi a questo allarme per esempio con l'introduzione di insulina o quant'altro. Quindi questo già avviene, no? Questa è una cosa che già sta avvenendo. Ebbene, a Yale nel 2014 è stato impiantato per la prima volta nella storia un pancreas artificiale controllato da un iPhone. Come funzionava? In maniera semplicissima: una pompa dentro l'addome della persona malata di diabete. Questa pompa era in grado di iniettare insulina e glucagone, che sono le due sostanze che servono per tenere sotto controllo il tasso di glicemia nel sangue. Quindi c'erano i sensori che così tenevano sotto d'occhio il tasso glicemico, passavano questi dati all'iPhone e l'iPhone, se superavano certe soglie, attivava queste pompette che iniettavano insulina e glucagone secondo quantitativi prestabiliti e senza intervento umano, quindi in maniera automatica, mentre finora, prima di questa cosa, era comunque il paziente a doversi iniettare le sostanze. In questo caso invece questo avveniva in maniera automatica. E non è infrequente, non è più infrequente oggigiorno, che persone indossino sensori per il controllo della propria salute, per il controllo delle proprie attività. A volte li vediamo anche nei parchi correre, no? Mentre indossano fasce per braccia piuttosto che orologi, ecco, poi non ne parliamo degli smartphone. Tutti questi oggetti che si indossano, no? Diciamo sotto i vestiti o anche sopra, registrano dati sul nostro stato e sono in grado di darci dei consigli sulla dieta da avere e sulle abitudini da avere per poter arrivare all'obiettivo di una vita lunga e soddisfacente. Questo già avviene, non dico niente di insolito, no? Google e Novartis, due colossi che lavorano in due settori completamente diversi. Google sappiamo tutti che lavora in IT, Novartis sappiamo tutti che lavora nel farmaceutico, insieme stanno per lanciare un prodotto che è una lente a contatto che è in grado di determinare il livello di glucosio dalla lacrimazione, e quindi un oggetto molto facile da indossare che tiene sotto controllo il livello di glucosio negli esseri umani. Pixie Scientific sta per mettere sul mercato dei pannolini intelligenti che diciamo possono leggere i valori dall'analisi delle feci, quindi la cacca dei bambini che li indossano, e da questo possono tirar fuori lo stato di salute del bambino, quindi il genitore può avere costantemente lo stato di salute del proprio figlio monitorato in maniera automatica. Ecco, tutto questo è diciamo che la possiamo chiamare ideologia dei sensori. Si tratta proprio di un'ideologia, in certi casi possiamo addirittura dire che è una religione. Progetto Microsoft Band nel 2014, una fascia che è in grado di rilevare dati cardiaci, dati sul sonno e contare i miei passi, e mi stima, c'è un'applicazione che si chiama Deadline, connessa a questa Microsoft Band, che è in grado di dirmi quanto mi manca per morire. Ecco, fa ridere, è ironico, no? Molti utilizzano queste tecnologie come un gioco, però per altri invece no, non è un gioco, per altri la prendono molto seriamente questa faccenda, cioè appunto c'è una vera e propria religione dietro, dietro questa storia dei sensori, no? Che insomma stanno ormai entrando sempre di più nelle nostre vite. C'è addirittura un movimento che si chiama Quantified Self, che è convinto e propugna la seguente idea: il sé, l'autentico sé, è nient'altro che pattern matematici. La mente umana non può comprendere questi pattern matematici perché sono troppo complessi, quindi la mente umana non è in grado di leggere se stessa. I pattern che arrivano dal corpo non sono leggibili dalla mente umana, ci vuole qualcos'altro che li possa interpretare. Quindi se la mente umana non è in grado di interpretarli, non può conoscere se stessa, quindi non c'è più l'individuo, no? Appunto c'è il crollo dell'individuo. Si può però acquisire un'autocoscienza di sé attraverso i numeri, quindi attraverso la matematica. Come dire, è inutile che perdete tempo con la filosofia, la meditazione, la psicoanalisi, non serve a nulla di tutto questo, siamo sistemi biochimici, siamo una collezione di sistemi biochimici e di algoritmi, non siamo individui, e quindi per qual motivo dovremmo prendere delle decisioni? Visto che non siamo in grado di comprendere quello che sta succedendo dentro di noi. È come se ci chiedessimo a un certo punto, abbiamo del tempo libero, diciamo voglio giocare a tennis oppure a scacchi. Un amico ci direbbe boh, non so, fai quello che ti senti, no? Segui un attimo quello che ti va di seguire, magari quello che ti va di seguire in maniera banale è magari giocare a tennis, perché così faccio un po' di moto, mi sento meglio e neanche la salute ne giova, però invece non so, ho sentito dire che il gioco degli scacchi rafforza la corteccia cerebrale sinistra. Nella mia famiglia ci sono casi di demenza, mio zio in giovane età ha sofferto di questa malattia, e quindi quasi quasi gioco a scacchi per ridurre gli effetti di questa cosa. Ecco, quando le nostre decisioni, no, non sono più dovute a come ci sentiamo ma a fattori esterni, lì è proprio un campanello d'allarme, se vogliamo. Bene, ci fermiamo un attimo e ci ascoltiamo un pezzo dei Beastie Boys. Allora, questi erano i Beastie Boys, Intergalactic. Adesso riprendiamo la diretta. 06 49 17 50 è il numero per intervenire. Siamo ad Entropia Massima, stiamo parlando di intelligenza artificiale e in particolare stiamo parlando di come queste tecnologie potranno distruggere l'individuo. Oggi è un tema un po' più filosofico, ma portiamo sempre degli esempi molto concreti di tecnologie su cui riflettere. Dicevamo dell'ideologia dei sensori prima della pausa musicale. Allora, oggi si ascolta molto più il DNA, c'è una crescente familiarità con il DNA. Un tempo, no, ciò che si diceva, l'umanesimo ha sempre detto, gli anziani sono le persone sagge, sanno sempre cosa consigliarti. Ecco, nel XXI secolo, poiché gli anziani sopravvivono abbastanza a lungo da disintegrarsi e dissolversi, no? Stiamo capendo forse che gli anziani spesso diventano, no, dei sistemi biologici disfunzionali, e quindi essi stessi già oggi vengono spesso tenuti in vita da una serie di monitor, di computer, di pompe, come abbiamo visto, no? Quindi questo sta succedendo. Ascoltare il DNA, una crescente familiarità con il DNA, sia perché le tecnologie sono pronte, la scienza è matura. Vi racconto un fatto che forse già conoscete, riguarda una nota attrice, Angelina Jolie. Nel 2013 Angelina Jolie sul New York Times scrive un articolo in cui afferma pubblicamente la sua intenzione di effettuare una duplice mastectomia. Aveva avuto mamma e nonna morte precocemente a causa di un tumore alla mammella, quindi aveva in effetti una alta probabilità genetica di avere di contrarre la stessa malattia. Decide di fare un test appunto genomico, si dice così, e viene fuori che in effetti è portatrice del gene BRCA1 e le diagnosticano un 87% di probabilità di contrarre il tumore al seno. Bene, lei quindi, di fronte a questa notizia, sebbene stesse benissimo, non aveva alcun problema, alcun disturbo, decide appunto di praticare la duplice mastectomia, e non solo, decide anche di rendere la cosa pubblica. Ora, pensiamo che questo tipo di intervento che lei ha voluto fare porta a dei rischi, costi, ci sono dei costi, no? Certamente quelli forse non erano un problema per lei. Trattamenti post-operatori, ripercussioni, possono esserci delle ripercussioni anche sulla salute, certamente sull'immagine corporea, e quindi delle ripercussioni anche sul benessere emotivo, sulle relazioni che si hanno. Ecco, lei però per prendere questa decisione così tosta non ha asceso la vetta di un monte, non ha contemplato al tramonto, no, il sole che si inabissava nell'oceano, non ha sentito le sue intime sensazioni, non ha ascoltato il suo autentico sé, ha letto i risultati dell'esame genetico, numeri, non stava male, si è sottoposta a questo intervento, lo ha scelto. Certo, si potrebbe obiettare che certamente le emozioni e le personalità del singolo giocano un ruolo, e sicuramente lo avranno giocato anche nel suo caso. Lei ha scelto questo, qualcun altro avrebbe scelto qualche altra cosa. Ciò non toglie che ha fatto guidare la propria decisione da qualcosa di esterno, da sé, appunto da un algoritmo esterno. Anche noi ci sottoponiamo a degli esami diagnostici, no? Oltre al test genetico ci può essere l'esame del sangue, la risonanza. E cosa facciamo se abbiamo notizie gravi di salute? Cosa facciamo? Fino adesso ci siamo fidati di noi stessi, di un amico, di un parente. Ecco, oggi possiamo invece ascoltare un algoritmo che magari accede a delle enormi masse di dati, quindi a delle statistiche molto estese, e mi può dare un consiglio probabilmente più preciso, molto più pratico di quello che mi può dare un amico. Piccola nota di colore: Angelina Jolie aveva debuttato al cinema nel 1993 con il film Cyborg 2, in cui lei interpretava appunto un cyborg. Nel 2074, Casella Reese, questo cyborg era stato costruito da multinazionali che facevano spionaggio e omicidi. E Casella era stata costruita con delle emozioni umane affinché potesse confondersi nella società. Quando scopre che viene controllata da queste multinazionali e che poi dopo vogliono eliminarla, Casella scappa via e lotta per la vita e per la libertà. Ecco il classico film che è un prodotto liberale: l'individuo che lotta per la libertà e per la privacy contro le tentacolari imprese globali. È un canovaccio arcinoto. Nella vita reale però Angelina Jolie ha sacrificato autonomia e privacy in cambio della salute. Probabilmente anche molti di noi potrebbero fare lo stesso. E c'è da dire anche questo: siamo costantemente e inesorabilmente indotti a smantellare volontariamente tutte le barriere che proteggono i nostri spazi privati. No? Di privacy ne abbiamo parlato tante volte, no? Specialmente connessa con l'IT, con le tecnologie dell'information technology. Notiamo che, almeno io lo noto, poi ognuno dirà la sua, di fatto anno dopo anno consentiamo sempre di più alle multinazionali di accedere ai più reconditi spazi personali. E già sta succedendo con appunto scemenze come i social network. Immaginiamo quando si tratta di salute. Immaginiamoci noi quando ci dobbiamo trovare a prendere decisioni di questo calibro. Bene, parliamo di Google. Ne abbiamo parlato tante volte in radio, insomma, di Google se ne deve parlare, perché non c'è bisogno di dire il motivo. Google, sappiamo che già oggi è in grado di prevedere delle epidemie, quindi sempre parlando di salute, in maniera molto rapida, in pochi minuti è in grado di dire se ci sono delle epidemie in corso, semplicemente leggendo le email delle persone e il traffico che queste persone fanno, i posti che frequentano. Fino ad oggi come si faceva per le epidemie? Uno andava dal dottore, la mattina si sveglia, va dal dottore, il dottore dice che c'hai, digita dei tasti su un computer, poi questi tasti, questi dati che lui scrive, forse qualcuno li leggerà, li correlerà forse con altri dati scritti da altri dottori, questi flussi poi verranno studiati e infine si dirà sì, c'è un'epidemia in corso. Ci vuole un sacco di tempo per scoprire l'epidemia, invece Google pochi minuti e te la dice. Basta appunto leggere le parole delle mail, dove sono le persone, chi stanno incontrando, eccetera eccetera, e consultando una banca dati relativa ai sintomi, che ovviamente più estesa e più è preciso, più precisa la previsione, noi sappiamo che le epidemie stanno avvenendo. Ecco, tutto questo però è in mano a Google, non è in mano a noi. Nel 2008 Google fece il progetto Google Flu Trends. 2008, siamo al 2018, sono 10 anni fa. Questo progetto non è andato avanti, è ancora in fase di sperimentazione, perché ci sono state fatte obiezioni grosse relativamente alla privacy, no? E ci mancherebbe, ci verrebbe anche da dire, certo, ci mancherebbe, però diciamo che già nel 2008 Google era in grado di fare questa cosa. Poi, appunto, stiamo rallentando, però sono passati 10 anni, tornano alla carica con altri prodotti, con altre applicazioni, prima o poi ci sbaragliano. Baseline Study, altro progetto di Google, giusto appunto, è una banca dati sulla salute umana. Vogliono creare il profilo delle perfette condizioni di salute. Questo è l'obiettivo della Baseline Study di Google, cosicché ogni piccola, anche piccola deviazione dalle perfette condizioni di salute deve potersi tradurre in allarmi. Quindi anche il cancro, per esempio, no? Se c'è una deviazione da uno stato perfetto, sale un allarme che ci dice c'è un, potrebbe svilupparsi un cancro in una persona. Questo c'è una linea di prodotti di Google che si chiama Google Fit, che sono dei prodotti o degli oggetti indossabili, abiti, braccialetti, scarpe, occhiali, e questi oggetti indossati producono i dati, e questi dati vanno ad alimentare questa baseline study, questo progetto, le basi di dati, di diciamo, a cui questo progetto fa riferimento. Parliamo poi di test di DNA. Sappiamo che c'è un boom di questo mercato dei test del DNA. C'è un'associazione, c'è proprio una società che si chiama 23andMe, 23 ed io. 23 allude proprio alle coppie cromosomiche che formano il DNA di Homo sapiens, degli umani, no? Società fondata dalla ex moglie di uno dei due fondatori di Google. Cosa fa 23andMe? Per $99 ti manda a casa un pacchetto con dentro una provetta, sputate dentro la provetta, inviate la provetta a Mountain View e vi fanno arrivare su Gmail, diciamo per via telematica, vi fanno arrivare quelli che sono i rischi sanitari, le predisposizioni genetiche e 90 caratteristiche tipiche del nostro DNA, dalla calvizie alla cecità a una serie di altre caratteristiche genetiche. Ora, $99 sono pochi, no? Verrebbe voglia davvero di farlo, no? Questa prova, porca miseria, per $99 mi dicono tutta questa cosa. Beh, sapete già che non sono tanto quelli i valori che voi date a Google quanto il valore del vostro DNA. Se tanti cominciano ad acquistare questo pacchetto, si andrà a popolare una banca dati gigantesca e 23andMe sarà in grado di controllarci in maniera ormai irrimediabile. Si costruirà un gigantesco archivio di geni, monopolizzerà il mercato del test del DNA. Qualcuno dice addirittura, siccome in paesi come la Cina c'è meno attenzione alla privacy di paesi come gli Stati Uniti, la Cina potrebbe avvantaggiarsi e quindi andare più veloce. Certo, non ha bisogno di questo la Cina per avvantaggiarsi, sappiamo che è già molto avanti sia economicamente che tecnologicamente. Ad ogni modo, Google vuole creare il servizio sanitario onnisciente, vuole avere dati biomedici, DNA, storia medica, vuole conoscere i dati sulle epidemie, sul cancro, vuole i dati su i nostri dati biometrici per poterci dire se avremo un infarto, se ci ammaleremo di Alzheimer, e poi a questo aggiungerà tutto il resto che già. E quindi una volta che di me si sanno queste cose, si sa il mio conto in banca, i miei battiti cardiaci, le relazioni che ho, i posti dove vado, è ovvio che mi conoscerà meglio di chiunque altro, no? Poi sono delle macchine, quindi non ci sono degli autoinganni, delle illusioni, un mentire a se stessi, cioè, ci dicono le cose come stanno. E quindi lo scenario che diciamo si prevede che ci diranno quale film vedere, dove andare in vacanza, quale università frequentare, quale lavoro fare, con chi uscire, con chi sposarci, cioè, insomma, adesso esageriamo, però diciamo che l'idea è questa, no? Gli uomini che non sono più entità autonome determinate dalle storie che si autoraccontano, ma sono controllati e consigliati da algoritmi esterni, direi di fare un'altra piccola pausa musicale. Allora, siamo ormai nella terza ed ultima parte della trasmissione e abbiamo ancora un po' di tempo e quindi parliamo delle elezioni. Vabbè, no, scherzo, adesso ci saranno le elezioni, voi sapete che diciamo che in questa radio c'è ben poca affezione per questo momento, però insomma è ancora una cosa che viene molto seguita, no? Ecco, le elezioni sono uno dei classici del liberalismo, no? Quindi la sacralizzazione del sé, dell'autentico sé nella cabina elettorale. La persona sa cosa fare, sa anche cosa fare al supermercato, sa cosa fare nel mercato matrimoniale ma in realtà vediamo che anche le elezioni sono obsolete. Google conosce meglio di me le mie opinioni politiche. Non posso ricordare ogni cosa che ho provato o pensato negli anni che hanno preceduto le elezioni. Quindi anche se diciamo ho votato per qualcosa e che poi mi sono ripromesso di non farlo più, magari nel momento della cabina in cui sto in cabina, magari invece penso alle ultime cose e non alle precedenti. Su questo poi ci basano proprio, no, le campagne elettorali. Quindi basta abbassare un po' le tasse, fare un po' di spesa pubblica, rimbambire le persone con raffiche di propaganda, un po' di manipolazione. Aggiungiamoci che siamo imperfetti, i nostri ricordi a volte possono essere casuali. È tutt'altro che vero che nella cabina elettorale c'è la sacralità del sé. E poi sappiamo che magari uno si sveglia un giorno con un raffreddore e quindi preferisce sicurezza e stabilità e quindi preferisce non cambiare partito. Quindi questo per dire, no, che gli esseri umani sono questo, no? Invece Google sa come variava la mia pressione sanguigna quando leggevo il giornale la mattina e leggevo le notizie che mi facevano imbestialire. Conosce il mio livello di dopamina quando guardo il telegiornale alla sera. Sa filtrare anche gli slogan degli esperti di comunicazione, no? che giocano con la propaganda. Conosce tutte le malattie e quindi in sostanza sa già sa già come votare, forse farei meglio semplicemente a chiedere a Google come votare e l'abbiamo fatta finita. Ecco, questo è l'altro scenario. È stato fatto un esperimento con Facebook, che insomma è il grande rivale di Google, no? in questo panorama. La personalità e le inclinazioni umane sono conosciute da Facebook molto meglio che della propria cerca di amici, genitori e consorti. Hanno fatto un esperimento, 86.220 volontari, gli hanno sottoposto 100 domande sulla personalità e le inclinazioni. L'algoritmo ha previsto le risposte sulla base dei controlli effettuati sui loro like. Sapete che su Facebook si utilizza il like per dire mi piace una pagina web, mi piace un'immagine, mi piace un filmato. Semplicemente analizzando i like, l'algoritmo di Google ha conosciuto la personalità e l'inclinazione di ognuno di questi volontari meglio di come lo conoscono amici, genitori e consorti. E hanno fatto poi un confronto con i colleghi, gli amici, appunto, la famiglia, i partner. Ebbene, per i colleghi 10 like sono sufficienti per saperne più di loro. Con gli amici 70 like e Facebook sa meglio di un amico come la penso. 150 like e la mia famiglia è battuta, Facebook ne sa più della mia famiglia. 300 like e la mia consorte non può competere, Facebook sa molto meglio di lei o di lui qual è la mia personalità. Hanno poi fatto anche altri esperimenti sull'uso di sostanze e sulle dimensioni delle proprie reti sociali. I volontari sono sempre stati meno precisi dell'algoritmo. Ecco, quindi riprendiamo sicuramente il tema la prossima volta, ma chiudiamo con quelli che sono stati i risultati di questa ricerca. Questi risultati non sono stati scritti da una macchina, sono stati scritti da esseri umani. Ve li leggo. Gli individui potrebbero abbandonare i propri giudizi psicologici e affidarsi a computer quando devono affrontare decisioni importanti relative alla loro vita, come scegliere in che modo trascorrere il tempo, i percorsi di carriera o perfino i partner di una storia romantica. È possibile che tali decisioni, guidate dai dati, miglioreranno la vita delle persone. Questo lo dice Facebook e se lo dicono loro. Bene, Entropia Massima finisce qui. L'appuntamento è per lunedì prossimo. Non mancate.